Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Amore? Mi dica. Come va? Molto bene, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, siamo sempre di domenica, sempre alle 12. Ma cosa me ne frega a me che saluti tutti? Noi non facciamo queste radio che salutiamo e siamo gentili con tutti, siamo due caffoni. Guarda che sono stufa, eh. Vabbè, ecco, guarda, cominciamo che non subito ne posso più, non ne posso più. Un litigio quotidiano domenicale, no, che ci voleva. No, era un litigio, questa era un po' una provocazione, ma è ancora più isolato, vero? C'è ancora un po' di briciole del croissant qui intorno. Croissant vegano. A proposito del croissant, allora, si avvicina Natale, molti genitori, voglio ricordare, che stanno pensando di regalare un cane a Natale ai loro pargoletti. Ecco, non fatelo. cioè, la cosa più fantastica sarebbe di non farlo. La seconda, se proprio lo volete fare, andate a prendere e salvare dei cani nei canili. No, allora, voglio dire, non è che non bisogna farlo soltanto per il cane, no? Perché no, poi certo. È un'adozione fatta in questo modo è abbastanza semplice, sappiamo noi addetti del settore, che poi va a finire col fatto che addetti liberi del cane 15 giorni dopo o dopo poco. Quindi persone che adottano il cane dopo qualche mese sono stufi, non riescono a portarlo fuori, sporca in casa, eccetera eccetera, oppure la promessa dell'adolescente che ti dice, non sapete quante volte mi è capitato, vado a casa della gente che ha problemi col cane, ci sono i genitori là disperati, dice, ma mio figlio, che normalmente ha 15, 16, 17 anni, dice, aveva promesso lui di occuparsi lui del cane, via dicendo, ho passato il primo mese e non se ne è occupato, soprattutto più. A quell'età che poi c'avete l'ormonella, allora bisogna andare in giro a fare i fighetti, l'ormonella, ma senti te, vabbè, sì, comunque sarà l'ormonella o sarà qualche altra cosa. Fatto sta che poi non si assumono la responsabilità. Ecco perché qualche puntata fa, qualche mese fa, trattavamo di quel genitore americano che aveva fatto sottoscrivere ai loro figli il contratto. E noi le stiamo facendo per voi, radioascoltatori e tutta l'Italia unita, da nord a sud, a est ad ovest. Stiamo preparando il contrattino. Normalmente io osservo che quando un cane viene regalato, perché tu vuoi fare un bel regalo, no? Quindi regalo il cane, non stai considerando che quello là è un essere vivente, starà nella tua vita per 10, 15 o anche più anni, e che è possibile che magari ti dia un problema esatto. Allora, se tu l'hai pensato come regalo, dici no, con questo problema qui non era previsto, me ne devo sbarazzare il prima possibile, quindi ti ritrovi con un problema a casa, perché poi non sempre riesci a sbarazzartene, e ricordiamo che abbandonare i cani è contro la legge. Allo stesso tempo, che stavo dicendo? Mi avevo perso il filo. No, voglio dire, nello stesso tempo ti dico io una cosa. Questo per quanto riguarda i figli di 9 anni, 10 anni, 12 anni che li chiedono i genitori. Poi ci sono anche quelli di 20, 23 anni che sono già indipendenti, ragazzi e ragazze, che vivono da sole, vanno a lavorare, hanno un lavoro, pensano di poter, hanno un lavoro che gli permette di stare tanto col cane, si pigliano il cane, poi dopo 2 anni cambiano lavoro, vengono licenziati e stanno in ufficio 8-9 ore e il cane di botto rimane solo chiuso in una casa per 8-9-10 ore. Vogliamo parlare di quelli che adottano il cane insieme come coppia e quando si lasciano dicono ma noi adesso non possiamo più tenere il cane, lo portano in canile? Bravi. No, non complimentoni. Dico, ecco. Quindi adottare un gran cane, teste di minchione che siete. Sì, direi di sì, anche se è la nostra opinione, così usciamo un po' dal fare questa servizio. È la nostra opinione, opinione personale è che esatto. Chi si mette assieme, poi si molla il cane da qualche parte perché si è mollato, non ha abbastanza ben compreso che ha una responsabilità nei confronti di una vita, e quindi per me è un minchione. Quindi due sono minchioni, non uno, perché tutti e due, perché due per uno dei due si preoccupasse del cane, no. Quindi in che cosa consiste quindi questo passaggio nel prendere coscienza che questa è un'adozione in piena regola, cioè tu ti prendi la responsabilità di una vita, e per questa adozione ovviamente quindi sarebbe anche meglio fare delle leggi qua, perché uno dovrebbe fare un corso pre-adozione obbligatorio. Ma bisognerebbe fare come fa la Svizzera, che per prima di poter adottare un cane, sia che lo compri prendi da un allevamento che lo prendi in un canile, devi fare una sorta di patentino, devi fare un test o degli esami, un test, se non rispondi bene a questo test ti dicono che tu non puoi prenderti un animale in casa. Ne ho saputo una recentemente di uno che ha adottato un cane, il cane ha distrutto casa quando questo non c'era. Ricordiamo che quando i cani distruggono casa non lo fanno per dispetto, lo fanno per noia, lo fanno per frustrazione, lo fanno per disperazione, lo fanno per paura, ansia. Quindi è una reazione emotiva al loro disagio. Chi rientra a casa, come il caso che mi hanno raccontato recentemente, e picchia il cane fortemente e poi dice basta di questo cane, non ne posso più, me ne devo liberare, sappia che è una testa di minchia, perché lui ha messo nelle condizioni quel cane di stare male, e quella cosa lì, il fatto che il cane distrugga, è una reazione ad un disagio forte, emotivo di questo cane. E quindi no, mi raccomando, non adottate cani così a cuor leggero, dovete farvi un serio esame di coscienza e capire fino a che punto sarete interessati a risolvere i problemi qualora si dovessero presentare. Per chi ha bambini è ancora peggio sta cosa qua, perché quando tu prendi un cane e poi dici: ma mi dà un problema, me ne libero, che cosa stai insegnando a tuo figlio? Sì, infatti. Che si usano le persone. Certo. Tu puoi usare gli altri secondo di come ti fa comodo. Adesso lo vuoi, ti fa comodo, bene, dopodiché te ne potrai liberare. Quando avranno problemi nelle loro relazioni, sappiate che derivano da là. Conosco bene queste, purtroppo. Visto, erano per me gli applausi che ascoltavo. Lo so, infatti, okay. Infatti, no, sto applaudendo in questo momento. Esatto, grazie, perché ho ascoltato bene? Perché hai ascoltato bene. Ah, grazie. Ma bisogna sapere ascoltare anche, Brava, brava. Che non è, adesso dalla battuta stiamo passando a cosserie, bisogna sapere ascoltare, perché non c'è più sordo di chi non ha voglia di ascoltare. Detto ciò, adesso però ricordatevi, scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it, perché noi leggiamo, come potete sicuramente vedere, le vostre mail, vi chiamiamo anche in trasmissione. Facciamo un piccolo break e ci ritroviamo fra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Allora, notizia recente, parlo di un articolo apparso su quotidiano.net, sì, poco tempo fa, relativo al 15 di novembre. Titolo dell'articolo è: una tassa sui cani non sterilizzati, la vuole il PD. Che genio, che ideona. Allora, no, a parte noi i commenti politici che non voglio assolutamente fare, il punto è che è una legge proposta, no, tante volte anche da associazioni animaliste, cioè il punto che cos'è? È obbligatorio che tu sterilizzi il tuo cane, se tu vuoi tenerti il cane intero paghi una tassa. E perché? Cioè, la mia domanda è: ma questi che hanno fatto questa proposta ignobile si mettono nei panni del cane a capire se c'è bisogno oppure no? Allora, perché? Cioè, il cane è come un essere umano. Allora è come dire alle donne giovani: allora, se non vi fate sterilizzare vi dovete pagare una tassa, perché allora, per brava, me vale uguale. Brava. Allora, le considerazioni che vanno fatte sono di ordine medico, ed è per questo che tra poco parleremo con Barbara Gallicchio, la nostra veterinaria di riferimento, che ci spiegherà qualsiasi cose correlate appunto alla sterilizzazione, ma è anche di ordine, che so, c'è un conflitto di interessi da, certo, parte della categoria dei medici veterinari, perché in questo modo le sterilizzazioni tut court, a me viene da no, pensare c'è, così c'è una tassa, quindi vogliamo fare cassa con questa roba qua. Insomma, a me viene ci da sono pensare così. Milioni di cani in Italia, cioè potrebbe sorgerci anche il dubbio. Allora, parliamo con Barbara Gallicchio. Barbara. Ciao. Ciao Barbara. Ciao Barbara. Hai avuto modo di dare un'occhiata a questo, sì, articolo? Sì, ho dato un'occhiata. Purtroppo non è una novità, perché io la prima volta che ho sentito parlare seriamente di questa cosa era il 2000 o il 2001, quando ero nella commissione randagismo e tutela animale al Ministero, uh-huh, della Salute. E andavo lì una volta al mese, sono andata per alcuni mesi perché c'era da fare una revisione della legge sul randagismo e tutela animale, e già c'era questa proposta che in effetti veniva data, uh-huh, per scontata, ah, ed era proposta dalle associazioni animaliste, la LAV, la Lega per la difesa, ah, del cane prima, poi l'EMPA, gli animalisti italiani, la PETA in seconda battuta, ma, scusa, però tutti insieme. Ma scusami Barbara, scusa solo una cosa, ma questi non dovrebbero difendere i diritti degli animali? Infatti c'è stata una grossa discussione all'epoca e io mi sono trovata nelle condizioni di dover non solo discutere e litigare con loro, ma sentire dire, loro dicevano: ah, perché adesso noi siamo quelli cattivi, no? Come dire, noi stiamo facendo una cosa buona, allora, perché non vogliamo vedere i cuccioli sulla strada. Esatto, no? Il messaggio allora è questo: se tu sterilizzi tutti i cani ne nascono di meno. Ma casomai allora non pigli una tassa su questo, se fosse, mi dai un premio? se fosse vero sì, questo. Ma la tassa non la prendono la LAV, eccetera, eccetera. Ah, no, ma chi, ma, no, guarda, di no. No, la allora, tassa la no. prende il comune, ma poi la tassa che veniva proposta all'epoca, non so se sarà in quest'ottica e in questo tipo di regime, però la tassa che c'era in quella proposta era di equiparare la tassa annuale cosiddetta sulla fertilità, cioè per mantenere il cane fertile, al prezzo, al costo medio di una sterilizzazione, che faceva 220 euro. Wow. Quindi se io mi voglio tenere il mio cane intero, integro, diciamo così, devo ogni anno tirar fuori 220 euro, che non è proprio uno scherzo. Cioè, dal fertility day all'infertility day. Sì, ma è ignobile, ma ti posso dire, ma cioè, quello che voglio dire io, no, invece aspetta, Rosita, di... però calmati un attimo, perché ti devo spiegare una cosa che magari anche a casa non la stanno comprendendo. Perché le associazioni animaliste si schierano da questo punto di vista? Che sia valida o no, la loro motivazione è questa: i cani non sterilizzati portano cuccioli. Dal momento che poi i cuccioli vanno spesso a finire in canile, vengono abbandonati quando insomma proliferano così tanto i cani, allora è meglio avere i cani sterilizzati. Nei canili molto del randagismo è stato risolto con la sterilizzazione del canile, cioè i cani vengono sterilizzati. Ho capito, ma nel canile ha un senso. Appunto, parliamone, però la loro intenzione, certo, è questa. Nel canile ha un senso, cioè, perché nel canile non è che possiamo tenere insieme cani maschi e femmine interi, esatto, no? Ovviamente. Senza contare che, voglio dire, arriva in condizioni devastanti, che magari no, chi lo prende poi ci ripensa. Quindi... C'è un'altra cosa che fanno i canili. Allora, vuoi adottare questo cane e immediatamente appena lo adotti lo fai sterilizzare. Perché così questo, noi è, questo è perché non hanno i fondi, no? Perché, non perché hanno la, fondi? La legge dice che i cani e i gatti devono essere dati in adozione sterilizzati, questo dice la legge. Ecco, ecco. Poi, per siccome, fra siccome non hanno i fondi, sì, chiedono. Non hanno i fondi, cioè, i cani e i gatti provenienti da rifugio canini devono essere dati in adozione sterilizzati. Poi, siccome non hanno i fondi, allora ti fanno firmare un impegno per cui tu lo farai sterilizzare. Ma scusa, però quello che voglio dire io, allora, invece di imparare da paesi dove sono avanti in questo senso, allora, per la scusa, perché io la trovo una scusa, è quella di andare a risolvere un problema di abbandono di cuccioli che poi vengono abbandonati, ma in realtà bisognerebbe andare a monte invece di cercare di risolvere un problema che è già sorto, cioè cercare di non creare problema. Allora, in Svizzera fanno fare un test, un patentino a chiunque voglia acquistare un cane, sia dal canile, o prenderlo dal canile o acquistarlo in allevamento. Allora così ti preoccupi di dare un animale a una persona che, se non altro, col patentino ti ha dato più idea che abbia una cognizione di causa nell'assumersi la responsabilità di un'altra vita. Ma no che li vendi, li metti in vetrina, li vendi nel modo più ignobile, a dei costi assurdi, sono messi come gadget, gli fai fare il bagnetto, come abbiamo visto qualche puntata fa, i cappottini, li pigli per il culo tutta la vita, in più gli devo fare un intervento, gli apro la pancia per sterilizzarlo, perché ti devo dare anche una tassa? Ma fa schifo. Beh, allora, in Scandinavia, per esempio, nei paesi scandinavi è considerato un maltrattamento la sterilizzazione. Certo, hanno ragione. Come tagliare le orecchie e le code, giustamente, no? Perché se gli tagli le orecchie e le code e decidi che è un maltrattamento, allora è un maltrattamento, forse anche peggio, forse sì, anche peggio togliere loro gli ormoni sessuali. Certo. Che hanno un peso biologico. Ecco, ci racconti un po' questa cosa, cioè che cosa avviene in un abbiamo, cane? Oggi, siccome nei paesi, soprattutto in Australia, dove è venuta fuori per prima questa cosiddetta sterilizzazione pediatrica, che già il termine veramente ti fa venire i brividi, no? Questa cosa ha preso tantissimo piede negli Stati Uniti, per cui praticamente tu hai nel protocollo base del cucciolo, quando vai per la prima volta dal veterinario col tuo cucciolino, ti mette il programma vaccinale, poi finito il programma vaccinale, che so, a 5 mesi, sterilizzazione. O anche prima, anche a 4 mesi o a 3 mesi e mezzo, no? Sì, sì. Così hanno accumulato tantissimi dati sugli effetti a lungo termine della sterilizzazione, ecco, pediatrica. Quindi parliamo prima della quali pubertà, sono? No? Cioè, prima del primo calore della femmina, prima della pubertà. Prima della pubertà. Ti dico solo, scusami Barbara, così poi spieghi quali sono i danni, che per esempio non tanto lontano da me, una mia cugina, uno dei suoi cani l'ha portato prima che andasse in calore, perché i veterinari gli avevano detto: guarda che sappiamo che se lo fai prima del primo calore siamo sicuri che non gli verrà il tumore. È vero, perché il messaggio che è passato con la prima, diciamo, bordata di questo tipo di politica era che se tu non fai avere alla femmina mai oscillazioni ormonali, le mammelle rimarranno sempre inerti, uh-huh, e quindi il tumore alla mammella non viene. Però... o comunque può venire un tumore che non è ormonosensibile, ma sono la minoranza. Questo è vero. È vero che se tu non hai mai oscillazioni ormonali, le mammelle rimangono quiescenti, quindi il rischio di tumore alla mammella si abbassa. Però causa altre cose. Però e poi nel tempo, avendo tutti questi dati che sono, si sono accumulati tantissimo, abbiamo visto che ci sono invece degli altri tumori che aumentano. Oh. Per esempio, i sarcomi profondi, la milza, il fegato, il cuore, l'osso, l'osteosarcoma, aumentano come rischio se gli animali sono sterilizzati sotto i 12 mesi di età. Ma tu pensa. Anche il cancro della prostata, per dire, la prostata va incontro nel maschio, dopo la maturità, a iperplasia benigna. Anche nell'uomo questo avviene, no? La prostata diventa grossa e può dare dei disturbi. Ma nei cani sterilizzati, maschi sterilizzati, certamente la prostata non diventa grossa perché è un effetto del testosterone. Capito, Peter, il nostro regista, dobbiamo sterilizzarci così. Ecco, così non fate danni. Sarà, te oramai sarà, è troppo tardi. Non sarà più niente. Come troppo tardi? Una figlia ce l'hai già? Ah, beh. No, per il tumore alla prostata. Se tu li sterilizzi prima dei 12 mesi, invece aumenti di 3 volte il rischio che si sviluppi il carcinoma di prostata. Eccoci. Poi un'altra cosa interessante, per esempio, è l'aumento di una percentuale, diciamo intorno al 15-20%, del rischio di patologie ortopediche di crescita come la displasia. Ecco. A livello psicologico? Insomma, sembra effettivamente che Madre Natura ci ha fatto così, come dicevano difatti i nostri bisnonni, difatti, e quindi occhio perché c'è un senso. No? Ma difatti, Barbara, ti ricordi la prima volta che... scusate, sono venuta da te e tu mi hai detto, hai visto la barboncina, mi hai detto è sterilizzata, quasi rassegnata che ti rispondessi di sì, ti ho detto no, e tu sorpresa mi hai guardato e mi hai fatto come mai? E io ti ho detto guarda, per non saperne leggere e scrivere ho sempre pensato, se la natura l'ha fatta così e non è malata e sta bene, io la lascio così. Ecco, per l'appunto. E tu mi hai detto hai fatto benissimo. I dati più significativi che abbiamo sono... insomma relativi per esempio alle patologie d'ansia, tutte le patologie d'ansia tendono a peggiorare con la sterilizzazione, quindi anche dal punto di vista psichico abbiamo dei problemi con la sterilizzazione. E la demenza senile, sapete che i cani vanno soggetti a una demenza Alzheimer like. Dai, no, così non lo sapevo. Sì, ecco, proprio è molto simile, tant'è che il cane è una, diciamo, viene studiato per cercare di trovare soluzioni possibili, no? E questa demenza Alzheimer-like è molto più facile nelle femmine sterilizzate e nei maschi sterilizzati che nei maschi interi. In questo studio, che è stato uno studio molto grande che hanno fatto in Stati Uniti, non c'erano abbastanza femmine intere per fare un gruppo di paragone. Tu pensa. Perché sono tutte sterilizzate. Ma tu pensa. Senti Barbara, grazie, speriamo, insomma, questa legge, ovviamente noi faremo di tutto perché non passi, ma mi auguro che gli animalisti, che si chiamano animalisti, si mettano nei panni di un animale e pensino veramente a qual è la cosa giusta per loro e rispettino la loro... No, temo che questo non capiti perché loro ti rispondono tu non sei venuta nei canili. Ma che cazzo... Vabbè, senti, va, beh, tu sei venuta nei canili, per cui non ma sai che c'entra? Ma per abbiamo detto che per i canili ha un senso, ma allora piuttosto se tu pensi all'animale non vendi il cane a chiunque ti entra in un negozio e compra un cane, deve fare un test come in Svizzera. Il problema è che noi dovremmo far passare questo, no? Cioè se tu fai un obbligo, quella persona che ottempera questo obbligo è il proprietario responsabile, che è lo stesso proprietario che la cucciolata da buttare non l'avrebbe fatta mai, mentre quello che è irresponsabile, quello che tiene i cani vaganti, che non ci dà, non dà loro attenzione eccetera, e che quindi è poi quello che quando nasce la cucciolata la butta, quello lì non si presenta a fare la sterilizzazione, certo che no, obbligatorio, tantomeno a pagare la tassa. Ma certo. Quello lì è esula, no? Non mette neanche il microchip. Ma certo. Quindi cosa fai? Mandi in giro i vigili o chi so nelle campagne cercare quelli che hanno i cani dietro la cascina. Ma se non no, li mandano saranno i cani di città a essere sterilizzati. Esatto, no, ma poi i vigili non vanno in giro adesso, ci sono già le leggi che dovrebbero preoccuparsi di controllare come vengono trattati gli animali anche nei giardini, così non lo fanno, figurati. Comunque senti Barbara, grazie, magari ritorneremo su questo punto, ma se è stata speriamo di trovare una soluzione. Considerazioni utili. Tra poco parleremo con due esperti di canile che sono Eleonora Bizzozzaro e Fausto Vichi. Grazie Barbara Gallicchio, scriveteci chiedevi se sono felice @radio24.it. tra poco. Ciao Barbara. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. E siamo sempre qui, mi raccomando. Oggi una puntata carica di... Che no, Stefa? No, scusami, era per rinalzare un po' gli ascolti. Sai che il trash funziona sempre, quindi volevo il mio piccolo angolo di trash. Beh, mi è piaciuta questa, bravo. Aia, basta! Questo, capito, queste cose... No, vabbè, non fa così. Mi aiutate, ha detto la stronzetta giornaliera. Esatto, vi giuro che a casa non fa così. Ma torniamo a parlare di cose serie. Chiedimi se sono felice, @radio24.it. Scriveteci, perché stiamo parlando di argomenti veramente sempre parliamo di argomenti interessanti. Oggi in modo particolare. Brava la mia Rosita Cenetano. Siamo tornati insieme adesso? Adesso sì. Siamo tornati insieme. Però allora, forse adesso con i prossimi ospiti magari ti rilascio un attimo ancora. Allora, due fronti, no, stiamo trattando in questa puntata. Uno, le adozioni consapevoli, quindi chi vuole andare in canile ad adottare il cane, eccetera. E poi questa cosa, questa legge che molti vorrebbero far passare, per cui se uno non sterilizza il proprio cane a casa paga le tasse. Allora, abbiamo parlato poco fa con Barbara Gallicchio, veterinaria, ci ha offerto la sua visione sulla questione, soprattutto su che cosa comporta a livello fisiologico e psichico la sterilizzazione. E adesso invece abbiamo al telefono due educatori cinofili, due esperti della questione canili e randagismo, perché in canile loro praticamente ci vivono da anni, certo. E sono Fausto Vighi ed Eleonora Bizzozzaro. Ciao ragazzi. Ciao. Scusa, solo una parentesi, sulla fertilità non ci azzecca un cazzo nessuno in Italia, né per la fertilità delle donne né per l'infertilità dei cani. Fertility day all'infertility day. Non sanno proprio che cacchio sia, scusa, chiusa parentesi, allora, e Fausto. Allora, vorrei ascoltare il vostro parere. Della serie, Rosita, stai zitta. No. Sottotitolo. Ahia! Allora, dicevamo... Allora... Sentiamo Fausto, tu ti occupi di due realtà contemporaneamente, una è quella di Milano, della Lombardia, e una è quella della Calabria, perché tu sei tanto in contatto con il canile di... Il rifugio fatta di Lamezia Terme. Di Lamezia. Allora, grosso modo, se dovesse passare una legge come questa, cioè cane a casa, uno deve sterilizzarlo, altrimenti paga le tasse, cosa ne pensi te? Che cosa comporterebbe? È giusto? Non è giusto? Un esperto di canile, che ci dice? Allora, da esperto di canile ti posso dire che la legiferazione in Italia, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di benessere animale, andrebbe realmente declinata sul territorio, perché le realtà territoriali sono molto diverse tra nord e sud per quanto riguarda, per esempio, queste cosette qua. Ti posso anche dire che una legge che è quella, la 281 del 91, che obbliga i proprietari di cani a identificare il proprio cane a mezzo microchip, già da sola sarebbe un grande, se fosse applicata, se ci fossero le misure attuative per applicarle, per controllare l'applicazione di questa legge. Cioè tu dici, se noi già microchip stiamo attenti a microchipare tutti i cani, questo potrebbe essere già sufficiente per arginare il fenomeno randagismo? Sicuramente sì, anche perché i dati che posso sciorinare sono abbastanza significativi, no? Su una popolazione di cani catturati vaganti su Milano, che vede ritrovati, identificati quasi il 75% dei soggetti, e invece una percentuale che si abbassa clamorosamente a meno del 20% in una realtà come quella della Calabria, diciamo, come quella della Calabria, dove sostanzialmente c'è una identificazione minore, e un fenomeno proprio grazie al fatto che i cani non sono sostanzialmente di nessuno, del randagismo, chiaramente questa cosa crea una disparità territoriale piuttosto forte, sì, no? Quindi, aiutare anche a sensibilizzare sul fatto di, guarda che se hai un cane te ne devi occupare, anche da un punto di vista anagrafico, no? Quindi lo Stato deve sapere che ce l'hai, certo. Già aiuterebbe tanto. Per quanto riguarda la sterilizzazione in sé, anche qui, come ti anticipavo all'inizio della risposta, la distinzione territoriale è una cosa molto, molto è importante da tenere presente, certo, perché una cucciolata indesiderata al nord Italia probabilmente può essere fatta magari anche da una persona che è responsabile, che quindi si occupa di riaccasare i cani, uh-huh, e di allevarli nei loro periodi sensibili nella maniera corretta. Una cucciolata dove già il numero di cani è in sovrabbondanza enorme, in una realtà dove magari non ci si prende cura in un modo così sì, non c'è così tanta coscienza legalmente attento, no? di questo tipo di fenomeno diventa un guaio. Certo. Tant'è vero che a Milano la necessità di sterilizzare i cani è pressoché così lasciata al proprietario, che ha i contatti con altri cani in aree cane o in parchi, mm-hmm, conoscendo il proprio cane e sapendo prima di tutto se può socializzare, secondo se è in un momento adeguato o no per farlo, anche da un punto di vista di fertilità. In Calabria mi capita spesso, quando giro anche in automobili, di vedere, uh-huh, branchi di cani liberi, tra cui ci sono cani diciamo reinselvatichiti di branco, ma anche cani di proprietà che si uniscono per il giretto diurno al branco e che poi tornano a casa e fanno festa, no? Certo. E potrebbero anche fare festa. Eleonora, no? Bizzozzero, che cosa ne pensi di tutta questa cosa qua? Ma sono assolutamente allineata con Fausto, anche se, ripeto, il proprietario responsabile che microchippa il cane è quello che poi difficilmente fa fare la cucciolata indesiderata. Poi a Milano, in Lombardia, abbiamo la legge regionale che obbliga tutti i cani del canile a uscire dal canile in adozione già sterilizzati o castrati, quindi siamo già avanti con questa cosa. Senti, ma avviene sempre? Cioè tutti i canili danno già il cane sterilizzato? Diceva la Gallicchio che questa era la legge, no? Che ogni canile dovrebbe già legge regionale, quindi sì, assolutamente succede questa cosa. Le ASL, devo dire, io frequento vari canili in Lombardia e le ASL sono sempre molto puntuali e precise nella sterilizzazione prima dell'adozione. Quindi tu dici, allora, se uno si prende consapevolmente cura di un cane, è quello che tra l'altro andrà a farlo sterilizzare. E non no, ma anche se non va a far sterilizzare non farà mai la cucciolata indesiderata. Lei invece dice tempo, quello che fa che abbandona, cioè non c'è i bisogno cuccioli di questa tassa, perché comunque uno dice, se non è sterilizzato il mio cane comunque non lo faccio accoppiare così. Certo. Sì, certo, certo. Anche perché è responsabile delle conseguenze. Avere una cucciolata in casa poi non è facile, devi occuparti di darla via in maniera responsabile, quindi è un lavoro. E invece quelli che gli fanno fare con troppa facilità e superficialità i cuccioli sono gli stessi. Ma sono generalmente quegli stessi che poi non si occupano nemmeno di iscriverli all'anagrafe canina. Quindi esatto, nessuno li va a controllare. Torniamo a quello che dicevamo prima. Quindi sostanzialmente anche voi due mi sembra che siate contro questa legge qui, cioè non ha molto senso. Sì, diciamo che l'idea potrebbe essere bella, ma poi nell'attuazione la vedo veramente una cosa. Io proponevo di fare come fanno in Svizzera, invece di dare i cani a chiunque, anche chi vuole, una persona che vuole andare a comprarlo sia in negozio che in allevamento piuttosto che nel canile, deve fare un piccolo di esame, un corso preadozione. Perché ci sono persone che tu lo capisci subito, guardi, non è il caso, il cane a lei non glielo diamo. È esattamente quello che succede nei canili seri, viene fatto un colloquio preadozione, poi viene fatto un percorso preadottivo. Da lì fuori veramente l'idoneità della famiglia ad essere responsabile per tutta la vita del cane. Ecco, tu pensa che invece in Svizzera lo fanno a chiunque, anche uno se vuole andare ad acquistare in allevamento il cane, cioè ecco, chiunque. Questa è la cosa, e qui mi allaccio all'argomento dopo, che è il regalo di Natale. Si fanno nei canili seri i colloqui preadozione, quindi si evitano certi il cane dato in adozione semplicemente come regalo di Natale, poi però a gennaio ti ritrovi fuori dalla porta cani, altri cani, certo, cani indesiderati che sono stati presi invece in canili o negozi dove li danno via così un tot al chilo, certo, come fossero giocattoli di, certo, plastica. Va bene, senti Eleonora, ma allora, visto che parliamo adesso, quindi si sta avvicinando Natale e diverse persone stanno pensando invece di regalare la sciarpetta, i guanti o regalo il cane, no? Potresti dare dei, non so, degli spunti di riflessione a chi sta facendo questo pensiero? Sì, allora, se vogliamo cogliere il periodo di Natale per prenderci responsabilmente un cane che già avevamo pensato di prendere, va benissimo, nel senso che lo introduciamo in famiglia nel periodo di Natale anziché in un altro periodo dell'anno. Certo. Se invece è un regalo a un'altra persona, assolutamente va contattata l'altra persona. A me è capitato, una famiglia voleva fare un regalo, io ho chiesto se la persona a cui voleva regalarlo era d'accordo, sì sì, assolutamente, assolutamente, ho chiesto di venire, far venire in canile la persona ha ringraziato gli amici dicendo: ragazzi, vi ringrazio per l'idea, ma io il cane non lo voglio. Appunto. Vedi, ma certo, vedi, quando tu non dici nulla, magari hai la sorpresa sotto l'albero che uno si emoziona, ma poi quel cane lì, per i prossimi, se è un cucciolo, se è un cane giovane, tu per 15-20 anni. È certo, è certo. Bisogna, io dico sempre: bisogna pensare a lungo termine con il cane, no? Per tutta la vita del cane. Un cane, quando entra in famiglia, è convinto che, ovviamente, che quella sarà la sua casa, la sua famiglia, per tutta la sua vita. E quindi bisogna saperlo. È certo. Senti, Fausto c'è ancora in linea? Mi sembra di sì. Certo che sì. Ciao Fausto, che cosa ne pensi te di questa cosa? Cioè, tipo, se noi vogliamo fare una sorta di proprietario ideale, quello che dovrebbe, quello che supera il colloquio di adozione, che caratteristiche ha? Allora, il proprietario ideale ne basterebbe una, no? Forse stupendo un po', non ti posso dire che è una persona che ha tanto amore da dare. Sicuramente deve essere una persona che ha tanto amore da dare, ne vuole ricevere molto, ma deve essere una persona che ha una grande caratteristica, la responsabilità. È vero. Quello che passa attraverso l'adozione di un cane è veramente di varia natura, perché passano tantissime cose meravigliose. Un cane ti cambia la vita, e io ne so qualcosa, ma un cane realmente ti stravolge anche le routine, quindi devi essere pronto ad accettare un livello di cambiamento che, per chi non ha mai avuto un cane, va veramente al di là delle aspettative. Quindi questo deve essere una cosa messa in chiaro da subito, e parlare con gli esperti non vuol dire essere sottoposti a dei terzi gradi scomodi o comunque poco piacevoli. Significa a cercare di acquisire questa responsabilità attraverso un processo di consapevolizzazione piuttosto intimo. Ti fa un favore. Qualcuno deve no, fare. Certo, certo, ma di fatti ti fa capire meglio se è il momento adatto e se sei portato per. Senti, grazie, siete stati gentilissimi. Grazie Eleonora Bizzozzero, grazie Fausto Vighi. Li trovate al canile di Lamezia Terme e al Parco Canile di Milano, e anche come educatori cinofili. Fausto, come si chiama la vostra associazione? Dog Evolution. Dog Evolution. .it.com, cos'era? .it, dogevolution.it. Va bene, grazie ragazzi. Grazie, grazie a voi. Un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Noi ci vediamo tra poco. Parleremo dell'uscita del mio libro. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Io mi devo ricordare che non devo mai A abbassare la guardia, B marcare Peter il territorio. Peter Miriam, aiutatemi, grazie. Aiutatemi. Che tempo stringe, dobbiamo parlare di una cosa importantissima. Sì, cambia discorso. Allora, il 15 di novembre è uscito Un cuore felice, l'arte di giocare col cane. Bello sto libro, meraviglioso. Chi l'ha scritto? L'avevamo annunciato, l'abbiamo scritto io e Valeria Raimondi, che è qui con noi. Ciao Valeria. Buongiorno a tutti. Ciao Vale. Allora, per chi non lo sapesse, Valeria Raimondi è una bravissima editor e agente letterario. È il mio agente letterario ed è anche stata mia studentessa, perché lei ha fatto il corso per educatore cinofili Think Dog. A un certo punto le è venuta l'idea di scrivere un libro sul gioco. Guarda, me la stavi servendo sul piatto d'argento. Meno male la Raimondi non è stata una tua ex fidanzata. Ma smettila, ma sempre con questa roba. Vale. Vabbè. No, sì. Io sono innocente, so, esatto, perché lo devo controllare quest'uomo, capisci? Che dietro con me sei al sicuro, io sono. No, lo so, con te, anzi so di avere anche un'alleata volendo. Ma, esatto, dire, ma qui non bisogna. No, no, andiamo avanti, no? Cioè, invece di parlare del libro, parliamo del libro, che poi ne fai i conti e li facciamo a casa. Sì. Parliamo del libro. No, a parte gli scherzi, adesso sono seria io. Io vi giuro che siete stati veramente bravi, perché avete scritto, avete colto una cosa che uno magari aveva sotto il naso, sotto gli occhi, ma non l'ha mai vista e sviscerata come è stato fatto in questo libro, cioè capire che cosa vuol dire giocare, perché voi lo parlate per il cane, ma come a me era capitato di trovare nel libro di Angelo Dritto al cuore del tuo cane, anche in questo si nota il fatto che se tu invece di togli la parola cane al libro, è una filosofia che vale proprio nel rapporto fra esseri viventi, esseri umani, giusto? Esattamente, sì, esattamente. Giusto. Allora, io stavo dicendo prima, no, che Valeria ha avuto questa idea di scrivere il libro, uh-huh, e mi ha detto: Angelo, mi scrivi una prefazione. Quindi io me lo sono letto e ho detto: caspita Vale, ma lo sai che io aggiungerei tante cose, ti va se mi aggiungo come autore? Lei è stata contenta, la casa editrice che è Sperling e Kupfer pure, quindi alla fine mi sono dedicato ad agosto, invece di fare le vacanze mi sono messo a scrivere un libro. Però devo dire che sono molto contento, tra l'altro della parte che aveva già scritto Valeria. A me sono piaciute diverse cose che non trovavo in commercio, perché il mio timore era di vedere un libro sul gioco, certo scritto da Valeria, che lei mi fido, però sai, ce ne sono tanti, io infatti non avevo mai scritto un libro sul gioco così di miei. Vale, ma com'è che ti è venuta questa idea a te? Guarda, allora adesso vorrei dare la mia interpretazione di tutto questo giro. Allora, io ho tanti cani, troppi cani da tanto tempo, ultimamente ce ne ho veramente tanti, voi lo sapete, e ovviamente devo farli giocare tanto, mm-hmm, perché così poi stanno tranquilli in casa. E quindi mi sono improvvisata delle strategie anche per farli giocare fra di loro, per giocare io con loro. Poi ho fatto la scuola di Angelo e sicuramente tutta questa formazione, che è durata 3 anni, mi ha dato un po' inconsciamente tante impostazioni. Dopodiché avevo voglia di scrivere un libro sul gioco e ho detto vabbè, lo propongo. Ma quando ho pensato al libro sul gioco non lo immaginavo così. Mm-hmm. Quindi ha preso forma mano a mano poi. Sì, sì, totalmente, nel senso che mi immaginavo un libro come Angelo diceva prima, come tanti altri libri in commercio, cioè su come effettivamente si può giocare con i cani. E poi però un po' perché io sono fatta così, cioè devo sempre studiare un chilo di libri prima di mettermi a scrivere, un po' perché comunque avevo dentro questi germi di Think Dog che sono andata a cercare nelle varie direzioni verso le quali mi sono formata in questi anni, per cui quando mi sono ritrovata a scrivere ho scritto un libro che solo in parte è quello che avevo immaginato all'inizio, e poi è nata così un po' spontaneamente tutta la parte di cui hai parlato tu all'inizio di questa conversazione, Rosita, cioè di che cosa significa realmente il gioco, perché leggendo e studiando mi sono resa conto che noi lo sottovalutiamo molto, certo, anche nella nostra vita, sì, appunto, tra esseri umani. Il gioco è una parte fondamentale della nostra formazione, ma della Guarda, formazione vi leggo due righe da Instagram, perché c'è una persona che ha comprato il libro, l'ha postato, no? Ha messo un cuore felice come hashtag e ha preso questa frase da da uno degli scritti che c'è dentro il libro, e dice: il gioco è uno strumento molto potente che contiene tutto: comunicazione, apprendimento, divertimento, scoperta, stupore, sospensione del tempo, ma anche fiducia, tenerezza, empatia. Giocare ci porta rapidamente in uno stato mentale in cui i pensieri, le preoccupazioni, la stanchezza scompaiono e viviamo solo nel presente. Ci capiamo così bene quando giochiamo. Ecco, questo è un po' il senso del libro, no? Certo. Oltretutto poi Valeria ha fatto una parte, per esempio, le motivazioni legate alle razze e il gioco, perché le razze tendono a giocare in modo diverso, quindi certo, come declinare questa cosa, quali cani è bene mettere assieme, perché se te metti assieme dei gladiatori, come per esempio i boxer a giocare assieme, oppure il boxer con labrador con il pitbull, ne viene fuori un chihuahua con un alano, per esempio. Eh no, bisogna anche a loro, sì, insegnare, certo, queste cose qui, piuttosto che cosa fai quando il cane è un adulto, quando il cane è un cucciolo, quando il cane è un anziano. Quindi questa è la parte che Valeria ha scritto, che a me piaceva molto, e poi alla fine ha messo anche tutta una serie di idee su come giocare, no? Per dare degli spunti. Poi ricordiamo anche che c'è una post-produzione, una post-prefazione importante di Mark Beckhoff. Mica bao bao micio micio, perché Mark Beckhoff è uno dei padri fondatori dell'etologia cognitiva, uno scienziato che ha oltre 200 pubblicazioni scientifiche alle spalle dell'Università della California, insomma, quindi... insomma, a me ha fatto molto piacere, anche a Valeria. Quindi cosa... Vale, questo è il tuo primo libro? Sì, no, in realtà io ho scritto una parte di altri due libri sull'alimentazione, che è un altro degli argomenti di cui mi occupo. Mm-hmm. Però volevo fare una piccola nota a quello che è successo, che ha raccontato Angelo dopo. Quando poi Angelo doveva scrivere la prefazione, mm-hmm. e mi ha detto: ma a questo libro vorrei aggiungere anche io delle cose, cioè mi interessa. A me non è parso vero, perché ovviamente non avrei mai immaginato che lui volesse scrivere un libro insieme a me. Vabbè, ci credo. Tutto quello che è successo dopo è stato veramente un po' casuale, come si dice, come dice Antonio, come dice Machado, il cammino si fa camminando, strada si conosce camminando, e anche in questo libro è andata proprio così, che è partito in modo completamente diverso ed è diventata una bellissima collaborazione e ovviamente si è arricchito enormemente di tutta la parte Think Dog col suo protagonista. Beh, guarda, io vi dico la verità, avete fatto un gran bel lavoro, anche perché così mi sentirò che posso rispondere anche in prima persona. Siccome a me mi hanno sempre detto, crescendo, visto che non sono più di primo pelo, ma come ha detto la Vanoni, non sei neanche di secondo, simpaticamente, mi dico sempre: ma tu a questa età c'hai ancora voglia di giocare? E per me il gioco è sempre stato il mio antidepressivo, il mio rigeneratore, cioè io pur di giocare ho anche di fare una battuta, o anche di fare una provocazione, ma che deve portare... Ho anche uno scherzo telefonico. Nelle prossime puntate magari sveleremo i retroscena e anche quali sono i contenuti del libro, perché questo libro è una delle altre caratteristiche che ci insegna a vivere, perché oltre che a giocare con il gioco. Quello è un gioco, quindi guarda, avete scritto proprio un bel libro, bravi, perché secondo me aiuterà non solo nella relazione col cane, ma aiuterà proprio anche a livello personale, singolo o nel rapporto con l'altra persona. Allora ripetiamo qual è il titolo: Un cuore felice, l'arte di giocare con il tuo cane, di Sperling e Kupfer, autore Angelo Vaira e Valeria Raimondi, con la quale abbiamo appena parlato. Ciao Valeria, a presto. Bravi, grazie, ciao ragazzi, Valeria, un bacione. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti e a domenica prossima da Angelo Vaira e Rosita Celentano.